La teoria delle stringhe è nata. È democratico perché. Per OGM si intende. L'effetto placebo. Da Bicondo. È rimasta quella di Darwin. La mia risposta è che non lo so. Caccia al fotone. Scienza e dintorni su Radio Città Fujiko. A cura di Fabio De Sicò. Sabato 27 giugno 2009 e benvenuti a un'altra puntata di Caccia al Fotone. Su internet www.cacciafotone.it. E come ogni quarta settimana del mese, questo è il podcast sull'anno internazionale dell'astronomia, la trasmissione dedicata ai 400 anni dalle prime osservazioni di Galileo. E quest'oggi parleremo di due argomenti, un telescopio virtuale e un'iniziativa che si svolge per tutta la provincia di Bologna, il Virtual Telescope e Col Favore del Buio. Abbiamo al telefono quindi all'inizio il dottor Gianluca Masi, curatore scientifico del Planetario di Roma. E visto che siamo all'interno del podcast dell'anno internazionale dell'astronomia, ti voglio chiedere, Gianluca, visto che sei il primo che stiamo intervistando, che cos'è secondo te l'anno internazionale dell'astronomia? L'anno internazionale dell'astronomia prende questa designazione proprio su indicazione delle Nazioni Unite a festeggiare i primi 400 anni dello strumento principe degli astronomi, il telescopio. Era infatti il 1609 quando Galileo Galilei per la prima volta con cognizione propria di uno scienziato rivolge alle stelle appunto questo nuovo strumento e da 400 anni ormai il telescopio non fallisce nel rilanciare l'interesse e anche fornire grandi scoperte sull'universo. Gianluca, allora adesso ci andiamo ad ascoltare un piccolo pezzo musicale, poi torniamo in studio e poi cominciamo veramente con la trasmissione. Ça fait longtemps que je voulais vous raconter ce qui s'est passé ce soir-là avec Tara. Tout avait pourtant si bien commencé. Elle m'avait dit, veux-tu bien m'embrasser? Oui, mais voilà, à cet âge-là, je ne savais pas embrasser une fille comme ça, maman, papa. Vous auriez bien mieux fait de m'apprendre des choses comme ça. Je serais moins con ce soir devant Tara. Les hommes bien Tara. Faut dire que quand elle se pomponne, on a tous vu comme Tara. Faut dire qu'elle était vraiment conne. Mais moi je lui mettrais bien une fois. Allez maintenant, je vais quand même vous raconter ce que j'ai fait quand elle a voulu m'embrasser. Au moment opportun où nos langues se sont croisées, quel bonheur de se faire embrasser. Oui, mais voilà, Tara embrassée, elle, ça lui suffit pas. Je sens ses mains qui se promènent partout sur moi. Maman, papa, vous auriez mieux fait de m'apprendre ça, je serais moins con ce soir devant Tara. Allora Gianluca, noi ti abbiamo voluto interpellare perché tu sei curatore di uno dei progetti scientifici più innovativi che ci siano sul web, cioè un telescopio virtuale, il Virtual Telescope. Ci dai un attimo un'indicazione di che cos'è il Virtual Telescope? Poi entreremo meglio nel dettaglio, ma giusto per avere un'idea, che cos'è questo strumento particolare attraverso il quale fai delle trasmissioni che sarebbero quelle di Cerum Stream? Molto volentieri. E questo progetto è partito ormai quasi 3 anni fa, quando ho pensato di mettere a disposizione di tutti, di chiunque disponga di una connessione internet, una serie di telescopi, strumenti di elevata tecnologia che possono essere perciò adoperati da casa propria, semplicemente collegandosi con i computer del nostro osservatorio. Perciò sia che so, il curioso del cielo oppure anche lo studioso possono adoperare i nostri mezzi per ottenere quello che occorre loro per le loro ricerche oppure semplicemente per esplorare e scoprire la bellezza del cielo. Siamo ormai, devo dire, quasi al completo con i nostri strumenti, potendo offrire sia osservazioni di giorno che di notte, quindi anche il sole ormai è una delle possibili mete che noi proponiamo. Quindi chiunque volesse può collegarsi dal proprio PC via internet ai nostri strumenti e diventare astronomo per una notte o per più, se lo desidera. Peraltro parlavi di sole, in questo momento il sole sembra essere silente, non si sa perché, sinceramente. Finalmente si è preso una lunga vacanza. Senti Gianluca, rientriamo un attimo sul telescopio virtuale. Che tipo di telescopio è quello che puntate verso il cielo, puntando le stelle e o puntando il sole? Dunque, per quanto riguarda la parte notturna, noi abbiamo uno strumento che è poi il nostro strumento principale, che ha un diametro di 36 cm ed è montato su un dispositivo meccanico completamente robotico. E al telescopio poi è ulteriormente installata una telecamera molto sensibile con cui vengono ottenute appunto le riprese delle immagini del cielo. Questo strumento, oltre che a essere pilotabile in tempo reale, può lavorare in perfetta autonomia senza neanche presenza di personale umano sul posto, quindi come un vero e proprio robot. Passando invece alla parte diurna, cambia drammaticamente lo strumento. Il sole ha tanta e tale quantità di luce che si può osservare con profitto anche con strumenti molto molto più piccoli. Nel nostro caso abbiamo voluto prendere un telescopio che nel mare magno di luce e di energie che ci giungono dal sole, abbiamo voluto selezionarne una che corrisponde a una specifica lunghezza d'onda, che corrisponde all'idrogeno, la linea alfa, che mostra i dettagli forse più affascinanti del Sole, le protuberanze, queste grandi esplosioni e altre strutture in continua evoluzione. Quindi ecco, abbiamo la possibilità di vedere l'universo così come si evolve nel giro di pochi minuti. Gianluca, mi vuoi spiegare come avete fatto a collegare una camera al telescopio e poi a collegare il telescopio tramite internet e poi cercare di collegare il telescopio collegato alla camera attraverso un controllo remoto virtuale? Sì, noi abbiamo davvero approfittato di tecnologie correnti, noi non abbiamo inventato, devo dire, questo, chiamiamolo, protocollo. In tanti, magari anche tra coloro che ci ascoltano, di professione forniscono assistenza remota su computer che hanno magari dei problemi presso il cliente. Ecco, quando si accede a un computer di terzi, a quel punto si può fare qualsiasi cosa con quel computer. Quindi se tu ti colleghi al nostro osservatorio, da quel momento sei letteralmente il padrone degli strumenti, dal momento che sulla nostra macchina a cui tu hai appena avuto accesso sono collegate tutte le periferiche astronomiche. Quindi di fatto è come trasferire, questo l'ho trovato subito affascinante, trasferire sulla scrivania dell'utente remoto tutte le potenzialità che sono residenti in osservatorio. E questo è sinceramente una delle cose più belle della tecnologia contemporanea. Senti, che tipo di camera è quella collegata al telescopio? Noi abbiamo una telecamera della Santa Barbara Instrument Group, che è una casa che tra le prime ha cominciato a produrre questo tipo di strumenti diciamo a livello commerciale, laddove prima erano appannaggio solo di pochi e devo dire economicamente robusti enti di ricerca. Questa camera è dotata di una grande sensibilità, di una grande efficienza nel raccogliere la luce. Faccio un esempio: il nostro occhio riesce a catturare 1, 2, 3 fotoni su 100 di quelli che ci arrivano da ogni dove dall'universo. Una camera del genere riesce a catturare quasi l'85%, quasi il 90%, quindi è in questo decisamente più performante. Senti Gianluca, che cos'è che ti ha stupito di più nelle reazioni del pubblico mentre utilizza questo telescopio? Cioè, in particolar modo, le persone che vedevano il cielo con il telescopio, che tipo di reazioni avevano? Beh, devo dire che una prima reazione, che non è probabilmente la più interessante, ma è intrigante, è quella di scoprire come tutto sommato era facile gestire il tutto. Magari si pensava chissà quale complicazione, invece no, lo strumento in questo è molto semplice e dunque lascia il tempo anche di contemplare la varietà di forme. Ecco, le persone sono spesso incantate nel dover ammettere, dopo una lunga notte di osservazioni, che avendo visto galassie, galassie, galassie, ammettono appunto che non ce n'è una uguale all'altra, quindi effettivamente un universo che si dimostra in questo estremamente, mi piace dire, creativo. Poi questo stupisce molto anche vedere, grazie allo strumento, delle variazioni nel cielo, un piccolo asteroide che si muove, oppure una cometa che nel giro di mezz'ora modifica le strutture che mostra, il sole stesso che nel giro di pochi minuti lancia una lingua di fuoco nello spazio che poi svanisce nel nulla. Ecco, quindi cogliere un po' questo senso. Questa è stata una cosa con cui abbiamo giocato, in particolare ad aprile, quando mi piaceva prima il gioco del numero 100, quando si sono celebrate le 100 ore di astronomia, in cui abbiamo voluto, con uno spettacolo chiamato L'universo non dorme mai, proprio mettere il dito su questo aspetto, anche grazie al contributo dei nostri utenti. Mi viene in mente che questa modalità di utilizzare un telescopio in più persone è una modalità che poi utilizzano tutti i grandi telescopi della Terra, cioè gli astronomi in realtà non hanno il proprio telescopio per osservare, ma affittano il tempo d'antenna, ed è quello che viene fatto tramite il virtual telescope. Questo, come tu giustamente stai indicando, anche diciamo, un suo corollario, il fatto di poter accedere a costi contenuti, a strumentazioni che hanno invece costi molto, molto superiori. Magari il singolo non arriverebbe mai a mettere assieme tutto quel tipo di armamentario, non fosse altro per la mancanza di esperienza. Invece, ecco, con un accesso a costi, devo dire, assolutamente simbolici, noi richiediamo per certe attività, molte di queste attività che forniamo sono gratuite, per alcune chiediamo un minimo di contributo economico per mantenere attivo questo progetto. Quindi noi vogliamo rendere molte delle nostre offerte gratuite, conferenze online, osservazioni di grandi fenomeni, però da un lato, dall'altra parte abbiamo bisogno, non fosse altro, di pagare la bolletta telefonica, ecco, quindi chiediamo ad alcuni utenti che ci sostengono delle somme simboliche per partecipare a dei programmi esclusivi. Gianluca, oltre a gestire questo telescopio, tramite questo telescopio tu fai una trasmissione online che è il cosiddetto Cerium Stream sul sito di una rivista molto famosa di astronomia, che è appunto la rivista Cerium. Ci vuoi dare un attimo la descrizione di questo spettacolo che tu fai ogni tanto su alcuni fenomeni, su alcune osservazioni verso il cielo? Volentieri. Intanto Cerium Stream nasce proprio come un progetto congiunto tra Virtual Telescope e Cerium Astronomia, che tu citavi poco fa. L'idea più generale è quella di aver creato un luogo, perché mi piace definirlo così, dove tutti gli appassionati possono mettere a disposizione i loro video astronomici. Tu sai, per tanto tempo la fotografia è stata il mezzo documentativo più efficace, più diffuso relativamente al cielo, però ecco, con la fotografia in un certo qual modo si perde proprio il senso del tempo, l'evoluzione, il dinamismo. Questo viene recuperato oggi anche con software che permette di montare immagini o con delle telecamere speciali. Quindi Cerium Stream è nato intanto proprio come bacheca, come una sorta di YouTube dell'astronomia. A margine di questo abbiamo voluto proporre anche una sorta di canale di comunicazione scientifica innovativo, e due volte al mese all'incirca proponiamo, dietro il movente di un argomento di grande appeal, ecco, una premessa teorica, semplice comunque nei termini, e una parte osservativa compiuta con il nostro strumento e condivisa in tempo reale. Devo dire che questo progetto sta avendo un straordinario successo, ne abbiamo molte centinaia, talvolta anche qualche migliaio di utenti connessi a ciascuna delle nostre serate. La prossima sarà il 29, quando tenteremo di osservare addirittura Caronte, il satellite principale di Plutone. Non è un'impresa scontata, però ci piace provarci in diretta con chi sarà collegato. Mi viene in mente che qui a Cacciafotone abbiamo parlato molte volte del web 2.0, e questa è un po' una modalità di rendere l'astronomia integrata col web 2.0, che poi è quello che sta cercando di fare anche il sito della NASA col rinnovamento del sito. Senti una cosa, Gianluca, se tu potessi ricordare una di queste puntate di Cerium Stream, qual è quella che ti è rimasta più nella memoria? Qual è quella che ricordi con più cuore? Ce n'è stata una che, devo dire, un po' è il simbolo anche dell'imprevisto, in senso buono, che il cielo riserva a chi se ne occupa. Quando la scorsa estate avevamo programmato una serata sulle stelle variabili, queste stelle che a dispetto della maggior parte hanno conoscono delle variazioni di luce più o meno regolari o irregolari, più o meno ampie. Ecco, mentre eravamo lì, che dovevamo andare in diretta appunto, scorgiamo, ci viene data notizia che una stella abbastanza peculiare aveva avuto un repentino aumento di splendore. E allora abbiamo cominciato, questo è il bello, a osservare questa stella, sapendo che quello che stavamo condividendo con chi ci seguiva sarebbe stato poi studiato letteralmente, era anche materiale di studio per noi, quindi non era un'osservazione di repertorio, voglio dire un esperimento fatto già tante volte, no. I nostri amici vedevano comparire un segnale, un grafico, un'evoluzione luminosa che da lì a poco avrebbe anche avuto, posso dire, significato astrofisico per interpretarne il comportamento. Quindi questa è un'esperienza che mi è rimasta molto dentro. Fare di fatto ricerca scientifica davanti a una nutrita platea di curiosi è stato davvero davvero bello. Gianluca, tu sei attivo nel campo astronomico perlomeno dalla metà degli anni 90. Io ricordo che ai quei tempi c'era anche una chat di astronomia, la cosiddetta chat astronomia su RCNet, e molte volte lì dentro si parlava di astronomia, di progetti futuri, eccetera eccetera. Ma che cos'è che ti ha portato alla passione verso l'astronomia? Cioè, qual è stato diciamo il confine che ha reso te un semplice appassionato di astronomia a una persona che la studia questa materia? Dunque, l'elemento che è stato, come dire, definitivo, in realtà è ancora precedente agli anni a cui ti riferisci, perché io per purissimo caso, come succede tante volte, incappai in un libro di astronomia, scritto tra l'altro da Guido Ruggeri, uno dei più grandi osservatori di Marte del Novecento italiano appunto, che mi catturò sia per la bellezza del linguaggio con cui appunto raccontava e condivideva gli aspetti del cielo, ma quello che mi intrigò erano le forme, ecco, delle nebulose e delle galassie. Io rimasi sorpreso di non averne mai vista una di notte con i miei occhi. Allora nel tentativo, all'epoca ovviamente impossibile, con gli occhi non avrei mai visto nulla, ma nel mio tentativo di arrivare a vederle, ecco, è iniziato questo percorso che poi è degenerato in tempo buono fino alle estreme conseguenze. Quindi un puro caso, una curiosità nata un giorno d'estate, di quelli un po' noiosi per un ragazzino molto piccolo, all'epoca aveva 8 anni, e che oggi, ecco, ci porta qui a parlare anche tra colleghi, insomma, di questo affascinante universo. Gianluca, in fine di intervista ti vorrei chiedere di ricordare qual è il sito del Virtua Telescope e come fanno le persone a poter partecipare, quindi poter affittare il tempo d'antenna per osservare il cielo con il telescopio virtuale. Sì, il nostro sito risponde all'indirizzo www.virtualtelescope.eu e esattamente su quelle pagine ci sono le istruzioni, diciamo, è indicato come si può procedere nell'uso del telescopio. Noi abbiamo eventi la cui partecipazione è gratuita, ne teniamo più di qualcuno al mese, sia in collaborazione con CERN, cioè, come dicevi, ma anche autonomamente, ma poi abbiamo anche delle serate, posso dire un po' più sottili, dove ovviamente diamo anche un piccolo valore in più, non fosse altro perché sono i nostri utenti senior, per così dire. Ma poi ancora di più, ecco, si può utilizzare personalmente lo strumento seguendo una serie di prescrizioni che sono riportate sul nostro sito. Chiunque poi lo volesse può tranquillamente scriverci e raggiungerci ai nostri recapiti per avere, se vuole, tutte le informazioni che desidera. Gianluca, io ti ringrazio per aver partecipato a Caccia al Fotone. Adesso ci ascoltiamo un piccolo pezzo musicale, poi torniamo in studio e poi parleremo di un'altra iniziativa che avviene nella provincia del Bolognese, che è Col Favore del Buio. Un saluto a tutti, a risentirci. Je me réveillerai dans un monde parfait. Je serai si bon que ça dénote. E bentornati in studio a Cacciafotone. Come promesso abbiamo al telefono il dottor Antonio De Blasi dell'Osservatorio Astronomico di Bologna. Buongiorno Antonio. Buongiorno a tutti, ciao. Senti Antonio, con te vogliamo parlare fondamentalmente di un'iniziativa che si tiene nella provincia bolognese che si chiama Col Favore del Buio. Non è peraltro un'iniziativa nuova, non è un'iniziativa che è nata quest'anno, ma è un'iniziativa molto antica che cerca di riunire un pochino tutte le esperienze astronomiche che ci sono nella provincia bolognese. Cercami di spiegare un attimo per iniziare che cos'è Col Favore del Buio. Sì, Col Favore del Buio è, come dicevi te, una rassegna di eventi che coinvolgono tutta la provincia di Bologna, filati di eventi di divulgazione astronomica, e quindi coinvolgono diverse strutture sia didattiche che osservative distribuite in questo territorio. Ed è una rassegna i cui enti promotori sono la provincia di Bologna, l'Assessorato della Cultura e l'Osservatorio Astronomico di Bologna. E quest'anno siamo giunti alla 12ª edizione. Senti Antonio, com'è nato Col Favore del Buio? Chi ha avuto l'idea di riunire queste esperienze? Perché in realtà in regione e in provincia ce ne sono molte di esperienze astronomiche. Come ente promotore è l'INAF, Osservatorio Astronomico di Bologna. Appunto 12 anni fa il dottor Gianluigi Parmigiani ebbe l'idea appunto di mettere su questa rassegna di eventi sotto un unico nome. E poi nel corso degli anni chiaramente questa rassegna si è arricchita di varie iniziative che coinvolgono diversi comuni. Medicina, San Giovanni in Persiceto, Loiano chiaramente sono quelli storici, diciamo. Antonio, volevo chiederti, ma perché poi avete deciso di riunire esperienze così diverse in provincia? Sono veramente diverse tipologie di osservazione astronomica, oppure Col Favore del Buio era solo un metodo per creare un cappello che riunisse l'astronomia in provincia? Sì e no, nel senso che le strutture osservative sono differenti, alcune sono simili, nel senso che ci sono diversi telescopi che osservano quindi il cielo nell'ottico, però sia la qualità dei telescopi sono differenti. Poi ci sono anche modi di osservare il cielo in maniera differente, per esempio con i radiotelescopi, e qui c'è l'Istituto di Radioastronomia, Medicina, che appunto mette a disposizione la sua struttura per vedere, tra virgolette, il cielo nelle onde radio. Noi a Loiano in particolare facciamo vedere il cielo proprio come si vede all'occhio di un telescopio storico degli anni 30 di proprietà dell'Università di Bologna e gestito dall'Osservatorio Astronomico di Bologna. Senti, tu sei coinvolto direttamente nel Favore del Buio, giusto? Ahimè sì, mi sono coinvolto, mi sono onorato, lavoriamo insieme ad un'associazione, la SOFOS, gestiamo le visite guidate appunto a Loiano, dove come dicevo prima c'è un telescopio degli anni 30 molto molto bello, che veramente invito tutti i radioascoltatori ad andarlo a visitare, chi non lo avesse ancora fatto. Questo telescopio veramente, entrando in questa struttura tutta rivestita in legno eccetera, va indietro nel tempo, quindi si respira l'aria che respirava l'astronomo circa un secolo fa. E sono oltre 50 serate che ogni anno vengono appunto dedicate al Col Favore del Buio. E nel caso particolare di Loiano l'evento si chiama il Parco delle Stelle e quindi consiste in 52 serate che durano circa 2 ore, nel corso delle quali il visitatore non solo osserva gli oggetti più interessanti e spettacolari del periodo, ma ripeto, vede anche un telescopio storico e delle guide esperte illustrano il cielo, ma anche l'evoluzione, la nascita e lo sviluppo dell'astronomia a Bologna e a Loiano. Ormai sono anni che tu fai queste rappresentazioni, insomma cerchi di parlare di astronomia al pubblico. La cosa che ti volevo chiedere è qual è il tipo di reazione che hai trovato nella gente che non aveva mai osservato un oggetto astronomico dal buco di un telescopio? Tutti restano affascinati. Veramente l'astronomia è forse la disciplina scientifica che meglio coinvolge anche l'uomo della strada, l'uomo che non studia per professione o comunque quotidianamente, non osserva il cielo quotidianamente. È una disciplina che affascina, e affascina sia il bimbo che l'adulto che l'anziano, più o meno in pari misura. I bimbi in particolare chiaramente ti trasmettono anche un senso di gioia nel far osservare il cielo, perché proprio si vede l'entusiasmo e la sorpresa di vedere questi oggetti dall'oculare di un telescopio. Senti Antonio, prima citavi tre luoghi che erano San Giovanni Persiceto, Loiano e l'Osservatorio Radioastronomico di Messina, però nel favore del buio ci sono altre esperienze fatte da associazioni, quindi associazioni di astrofili, di appassionati di astronomia, e altre esperienze di divulgazione o di diffusione dell'astronomia. Mi vuoi elencare quali sono tutti in sequenza i luoghi dove le persone possono andare a guardare il cielo o ascoltare il cielo? Guarda, un altro posto molto valido per osservare il cielo è la Via Cenerote, San Giovanni Persiceto, dove c'è un gruppo di astrofili che appunto gestisce in questo caso le visite al telescopio. Oltre al telescopio lì c'è anche un planetario molto bello, mi sembra che contenga una quarantina di posti a sedere, ecco, dove è possibile anche vedere il cielo, simulare la volta celeste, quando ahimè il cielo dovesse essere come in questi giorni coperto e quindi non si possa osservare direttamente al telescopio. Però di posti ce ne sono veramente tanti, e per tutte le informazioni del caso si può andare a vedere il sito dell'Osservatorio Astronomico di Bologna, www.bo.astro.it, dove elenca le diverse location di questa manifestazione. Sì, Antonio, tu parlavi di San Giovanni Persiceto e parlavi prima dell'Osservatorio Astronomico di Bologna. Una iniziativa famosa che fa l'Osservatorio Astronomico di Bologna, non a Loiano ma a Bologna, proprio nei Giardini Margherita, è la visione del cielo attraverso un puntatore laser. Ce lo puoi descrivere un attimo? Guarda, sono diversi anni che noi stiamo facendo questa esperienza molto molto positiva, raccogliamo sempre un gran numero di visitatori, sia che il tempo sia bello che meno. Consiste in un potente laser che ha un raggio di circa 4 km, un raggio di colore di luce verde, e con questo laser lo utilizziamo come se fosse un gigantesco puntatore, quindi ci sta una coppia di astronomi che illustrano la volta celeste, accompagnati anche da proiezioni su PowerPoint con scorrimento di immagini degli oggetti celesti di cui si parla, e questo puntatore, mentre gli astronomi parlano, appunto indica in cielo la posizione dei vari oggetti. È un'esperienza originalissima che, ripeto, riscuote sempre un grande successo. Quest'anno ancora non abbiamo la data per i Giardini Margherita, comunque già se ne stanno facendo diverse in giro per la provincia, l'ultima è stata a Marzabotto l'altra domenica, e nonostante il tempo fosse coperto, ripeto, la gente, oltre 200 persone erano lì presenti e comunque hanno assistito a questo show, diciamo un po' più limitato, dei professori che hanno comunque parlato del cielo, della volta celeste. Senti Antonio, so che è una domanda scomoda, ma la devo fare, la faccio a tutti, quindi la faccio anche a te. Mi siedo allora. Senti, tu come ti sei appassionato all'astronomia? Ti sei appassionato all'astronomia guardando il cielo, oppure perché sei stato particolarmente affascinato dal numero della costante di Hubble? Guardando il cielo, ahimè. Guardando il cielo, ricordo che avevo 6 anni che chiedevo a mio padre di venire al mare, il cielo chiaramente era buio, lontano dalla città, il nome di alcune costellazioni. Ad alcune mio padre ha detto un nome, ad altre no. E mi ricordo, ecco, questo è il mio più vecchio ricordo legato alla curiosità di osservare il cielo. È semplicemente questa passione di osservare il cielo che poi mi ha spinto anche a intraprendere questi studi. Ed è il motivo per cui io curo molto anche la divulgazione e do molto valore, senso alla divulgazione, perché attraverso la divulgazione scientifica è possibile, semmai, coltivare possibili nuovi astronomi. Antonio, siamo in conclusione di intervento, quindi siamo in conclusione della seconda parte della trasmissione, e quindi ti voglio chiedere, ti sentiresti di consigliare al pubblico un evento del favore del buio da andare a vedere assolutamente pena l'impiccagione? Beh, a questo punto io invito i radioascoltatori a salire su Loiano. A Loiano, ripeto, abbiamo questo telescopio, e poi quest'anno, oltre all'osservazione del cielo, è possibile anche assistere ad uno spettacolo, organizzato da Archivio Z, dal astronomico chiaramente, dal titolo Il sistema del mondo, Copernico, Galileo e il satellite, cioè dialoghi che si svolgono all'interno dei due telescopi, i 60 centimetri e il metro e mezzo, sempre ubicati appunto a Loiano, nella sezione astronomica di Loiano. E questi spettacoli si svolgono nei weekend di luglio e i primi 9 giorni di agosto, quindi dalle 17.30 durano circa un paio d'ore. Dopo, al termine di questi spettacoli, chi vuole può anche osservare al telescopio. Quindi diciamo che quest'anno Loiano offre qualcosa in più, veramente di originale rispetto agli altri anni: osservazione del cielo, non solo, ma anche uno spettacolo teatrale organizzato da Archivio Z, un gruppo di attori veramente molto molto bravi. E tutte le informazioni per lo spettacolo, a parte che si possono trovare sul sito dell'Osservatorio Astronomico di Bologna, che ripeto è www.bo.astro.it, ma si possono anche avere queste informazioni chiamando alla biblioteca di Loiano, il cui numero è 051 654 3617. Antonio, ti ringrazio per essere intervenuto in trasmissione, saluto i nostri radioascoltatori, gli ascoltatori di Caccia Fotone e di Radio Città Fujiko, e come al solito vi aspetto sabato prossimo, stessa ora, stessa radio, stessa fotone. Buona scienza a tutti, ciao Antonio. Grazie a tutti quanti, ciao, grazie.